E questa è una nota positiva. Adesso stiamo iniziando a superare il pregiudizio nei confronti di questa terra a queste ragioni. E si concretizza nel rendere, lo dico con una formula molto riassuntiva, più debole la comunità italiana. Perché se uno mi dice adesso dobbiamo costruire una casa, e io dico no, quella casa non si deve costruire. E poi la casa viene costruita, lì dice: ma no, le fondamenta non si devono fare così. No, non deve essere fatto così, deve essere fatto in modo diverso. Non bisogna metterci questi mobili, bisogna mettercene altri. Se poi quel processo va avanti, che cosa avremo alla fine? Avremo quello che abbiamo oggi, cioè che questo sistema nel quale noi viviamo è vissuto come una conquista da parte della popolazione sudtirolese. Cioè noi, e c'è anche un sentimento di orgoglio nella popolazione sudtirolese, mir sein gut, noi abbiamo ottenuto questo, noi abbiamo costruito questo sistema. E quindi c'è una piccola provinciale, quanto volete, limitata, però un'epopea della loro storia, degli ultimi loro decenni di storia. E mai, io credo questo si possa dire, nel corso della storia, i sudtirolesi sono stati così bene, così solidi, così ricchi e anche così solidi culturalmente come sono diventati in questi ultimi decenni. E invece, se io non ci sono stato nel progetto, se io non l'ho condiviso, se io ogni cosa ho detto no, a me è capitato nel 1998 di camminare per Bolzano e incontrare uno che mi ha detto: "Gavemo perso anche all'ANAS." Perché le competenze dell'ANAS erano passate da Roma alla provincia di Bolzano. Cioè, non mi sembra una cosa. Cioè, non è che noi siamo qui per difendere così l'ANAS perché? Perché appartiene a Roma, cioè per quale ragione? Guarda le strade, no? Guarda le strade, se funzionano meglio va bene, se no torneremo all'ANAS. Cioè, il criterio deve essere pragmatico. Però, siccome non abbiamo partecipato, allora in questo progetto abbiamo anche poco da dire. Questa è la realtà. In questo progetto abbiamo anche poco da dire. Adesso finisco dicendo questo. Io so benissimo, e Gabriele lo citava, che esiste anche un altro potente fattore che ha ridotto la comunità italiana in una posizione residuale. E questo fattore è quello che io chiamo il nemico, cioè quello che la maggioranza degli italiani di questa terra vede come proprio nemico, cioè la Südtiroler Volkspartei. Questo io penso di conoscere abbastanza bene il mondo sudtirolese, il mondo tedesco e anche le posizioni perlomeno ufficiali di quel partito, e questa è una sensazione diffusa ed è troppo diffusa per essere falsa. Cioè, però io credo in un certo senso che, come dire, la Volkspartei si sia tra l'altro, gli uomini della Volkspartei si siano tra l'altro fregati le mani ogni tanto. Abbiamo a che fare, cioè abbiamo a che fare con gente che sta portando la propria gente in un vicolo cieco. Ma meglio di così. È cinico, certo è cinico, però è così. Ora, quest'altro fattore c'è, esiste ed ha una sua influenza potente, io ne parlo anche nel libro. Però la ragione per la quale io ho scritto il libro è un'altra. La ragione per la quale io ho scritto il libro non è quella di indicare, ancora una volta, nell'altro, perché questo è il nostro vizio di origine, noi soffriamo di altrovismo. La responsabilità della nostra situazione non è mai nostra, è sempre di qualcun altro che ci ha preso e ci ha messo in questa situazione. Noi soffriamo un po' di altrovismo. E io ho scritto questo libro perché, secondo me, è anche il caso di guardare in casa propria quello che abbiamo fatto, come l'abbiamo fatto, quello che non abbiamo fatto. Perché quello che siamo, ripeto, è il risultato della nostra storia. Non c'è, almeno secondo la mia idea, un Dio. E anche se ci fosse, perché dovrebbe dire te, tu stai bene, tu vai a star male? Cioè, non. La politica è una cosa concreta, la situazione che si vive è il risultato delle forze in campo, della loro tensione, della loro consistenza, in che direzione tirano, dove ci portano. Bene, Bene, io credo che una grossa responsabilità della situazione in cui noi ci troviamo oggi vada ricercata in casa nostra. E c'è un'ultima spiegazione che voglio dare, parlando di quella che anche Gabriele citava, così, insomma, un'ultima considerazione che è questa. Io ho 51 anni e seguo la realtà di questa terra coscientemente da 30 anni almeno, insomma. E devo dire che ho visto, e credo questa non sia una novità per voi, ci sono molti esponenti del mondo sudtirolese tedesco che in questi decenni hanno alzato la mano e hanno detto da sudtirolesi tedeschi in sudtirolese tedesco ai sudtirolesi tedeschi le cose che non vanno della società sudtirolese tedesca. Penso ad Alexander Langer, l'uomo che fu indicato come un traditore, penso a Reinhold Messner, l'uomo che fece andare su tutte le furie il Sudtirolo quando, tornando reduce e bello di fama e di avventura dal suo 14° 8000 e che sarebbe stato avvolto e celebrato nella bandiera tirolese, disse: la mia bandiera è il mio fazzoletto, la mia bandiera è il mio fazzoletto. Mi ricordo una discussione con Magnago, andò su tutte le furie. Sono frasi provocatorie, dure, ma sono frasi che lasciano il segno, sono un'ascia. Guardate che anche da noi c'è qualcosa che non va. C'è stata una mostra sulle opzioni, un libro sulle opzioni, anche Messner ha fatto delle dichiarazioni sulle opzioni in cui ricordò che l'86% dei sudtirolesi allora nel 1939 scelse, optò per la Germania nazionalsocialista. C'è stato un artigiano della Val Sarentina, Franz Thaler, che ha raccontato come fu trattato dalla sua gente quando decise di non andare sotto le armi, sotto la Wehrmacht. Ci sono stati tanti giornalisti, tanti politici, tanti intellettuali, tanti artisti che per parte sudtirolese hanno fatto un lavoro, diciamo, di autocritica, cioè hanno detto: guardate che dobbiamo guardarci anche in casa nostra e non solo continuare il gioco, gli altri, l'Italia, gli italiani, eccetera, eccetera. Anche noi abbiamo delle cose di cui essere coscienti, di cui prendere atto, eccetera, eccetera. E queste persone, io credo, hanno reso questa società, anche se non sono, diciamo così, arrivate al potere, perlomeno a quello politico, perché il potere è ancora saldamente nelle mani del partito di raccolta, ma hanno contribuito con la loro parola a rendere questa società più pluralista, più solida in definitiva. Ecco, quello che io mi auguro di questo mio libro, al di là di singole passaggi che possono essere condivisi in parte, in tutto, o rigettati in tutto, è di fare nel mio piccolo un lavoro del genere. Guardiamoci in casa nostra, perché anche noi, insomma, abbiamo delle cose di cui essere consapevoli, degli errori da riconoscere e delle debolezze da ammettere, soprattutto a cui porre rimedio. Grazie. Bene, relazione molto ricca, penso piena di spunti, e io lo seguo un po' nella sua tournée, adesso l'ho già visto all'opera, mi sembravamo a Siusi, a Castelrotto. Generalmente il libro di Giudice Andrea provoca sempre reazioni di vario tipo, ma questo appunto è una testimonianza che questo libro è un'ascia. Io, prima di darvi la parola, volevo aggiungere due brevi spunti. Uno divertente: quando parlavamo della Democrazia Cristiana e della sua attitudine a lasciar passare le cose, non so se la citazione è esatta, cioè l'autore, però forse sì, mi sembra sia Giorgio Gaber o qualcuno della sua area milanese, che una volta fece una canzone molto, molto carina in cui si diceva quelli che, e andava avanti, c'era un verso di questa canzone che diceva: quelli che con un bel bicchiere d'acqua passa tutto, anche il cancro. Questo è un po' estremizzato, però forse c'entra questa cosa. Invece la seconda è più seria. Io sono stato la settimana scorsa alla presentazione di un libro che è uscito con grande pubblicità, di Thomas Benedicter, che penso sia, anzi sicuramente, il figlio di Alphonse Benedicter. Lui ha pubblicato per Athesia una ricerca molto voluminosa intitolata Autonomie in der Welt, in cui parla non solo della nostra autonomia, ma mostra come la nostra autonomia si inserisce in un largo spettro di possibilità e quindi non è una specialità soltanto sul tirolese, non è un dolce tipico della nostra zona, anche se da noi, diciamo, è una ciambella che dal punto di vista della minoranza tedesca è venuta particolarmente bene, particolarmente col buco. È un libro che vi consiglio, non è tradotto in italiano. Io e il mio amico Valentino Liberto eravamo gli unici due italiani presenti alla presentazione di questo libro. Questo è significativo, cioè esce uno studio che fa un po' il punto sull'evoluzione complessiva del mondo delle autonomie, presentato alla stampa, e gli italiani non ci vanno, cioè non ci va nessuno, magari aspettando che venga tradotto in tedesco. Forse verrà tradotto in tedesco, ma intanto è in italiano. Comunque c'è anche l'edizione in inglese, è uscita contemporaneamente in inglese e in tedesco, ma in italiano no. C'è un passaggio, perché al Sudtirolo sono dedicate poche pagine, una ventina di pagine su invece sono quasi più di 300, in cui con molta nonchalance, con molta, come dire, Senza farsi troppi problemi, si dice che il compito principale dell'autonomia sudtirolese è quello di proteggere e di conferire pari dignità alla minoranza nazionale tedesca e italiana, che insieme più o meno rappresentano il 74% della popolazione complessiva, e dice anche che potrebbero governare la terra anche senza gli italiani. Come? Sì, la minoranza tedesca e ladina. La minoranza tedesca e ladina che fanno circa il 75% della popolazione complessiva e potrebbero governare tranquillamente anche senza gli italiani. Questo ovviamente è fa un problema, insomma, abbastanza cospicuo. Do la parola a voi. Se qualcuno vuole fare domanda, dire la sua? Inizio io, se non prego, Hubert Gasser, direttore dell'archivio di Stato. In questo caso sarò, non so quanti di lingua tedesca sono presenti qui, e non vedo nessuno. Forse c'è no, va bene, siamo un po'. Is it a line? No, yeah, no. Ma non è un problema. No? Quello, come la benedizione. Prendo spunto dalla conclusione della presentazione di giudice Andrea, che appunto dice guardiamoci in casa, no? Perché io per esempio sono uno che da parte tedesca è di quelli, insomma, che tende piuttosto ad accusare, insomma, almeno nel passato. Non lo faccio tutti i giorni, non è il mio mestiere, per Langer lo era ed era una rovina, no? Non si può fare una cosa del genere, è una cosa deleteria alla lunga. Comunque io sono grato anche, come dire, a questa, come dire, è una presa di coscienza, no? Che è importantissima, perché se c'è il disagio italiano c'è anche il disagio tedesco, c'è un disagio universale, no? Allora quello che io voglio dire, l'unica cosa che voglio dire, non facciamoci monopolizzare dalla politica, no? Perché ovviamente il contrasto, il conflitto, il, come dire, il rivangare queste cose è pane politico. Assolutamente, basta che uno tiri su, no? Uno della destra di qua o di là un argomento e così via, i giornali hanno di cui parlare, di cui discutere, e i politici hanno di cui parlare, discutere, di cui, come dire, produrre materia politica per le prossime elezioni. C'è stato sempre, sciaguratamente per un bel po' ci sarà questo pane politico di cui non riusciamo a liberarci facilmente, no? E questo è un limite pesante, mentre ovviamente il nostro sentire, il nostro modo di essere tutti i giorni e così via, quando si parla di Heimat e così via, è fatto anche di altre cose, è fatto soprattutto di altre cose. Negli ultimi decenni, io frequentando molti italiani e così via, ho visto, come dire, che nessuno dice più che il tedesco non bisogna impararlo. Questo è cambiato notevolmente, no? E c'è stato un ritardo anche in queste, no? In tutte queste cose. Per esempio, se uno va all'università a Bolzano la sera, insomma, ci sono più italiani che tedeschi. Nel Sud Tirolo arrivano da Palermo ormai, no? Perché cioè, è come una valanga, una, come dire, anche di simpatia, direi, no? Che si esprime nel turismo, che siamo ancora, come dire, in fase di ascesa quasi, no? Cioè una cosa straordinaria, perché cioè, tutto il successo che lui ha accennato prima è una cosa vistosa anche, no? E così via. Sciaguratamente, ovviamente, una parte della popolazione non può o non ha potuto, non ha saputo partecipare a questo tipo di elaborazione in positivo, e questo è chiaro che, come dire, il tipo di origine anche di molti italiani in Alto Adige è un po' viziato, no? È viziato e rende difficile anche, come dire, questa presa di coscienza, perché c'è stato un arrivo di molti italiani, no? In un determinato periodo, in una determinata situazione, e non può sentirsi, come dire, in una Heimat così così, di punto in quattro e così via, no? Non è facile, no? Io che vengo dall'area brisinese e sono cresciuto lì, da quelle parti e così via, a Bolzano non mi sento ancora a casa, è difficilissimo, no? Sono qui a Bolzano da 25 anni e assolutamente non... ci vuole una generazione e poco, direi, no? Due generazioni, uno forse ce la fa a sentirsi a casa. Io non voglio prolungarmi, altrimenti faccio relazione, non è... Va bene. No, assolutamente. È così scioccanti le cose, no? È sparito l'archivio? Sono tutti d'accordo. Tutti d'accordo? Oh. Difficile essere d'accordo. Difficile essere d'accordo. Non apprendo la lode del pluralismo. No, io qualcosa dico. Intanto bravo giudice Andrea che ha scritto, perché rispetto a quelli che parlano solo al bar o dove dovrebbero parlare non parlano, almeno ha scritto e poi si offre con generosità al pubblico, perché ha fatto i tuoi inviti, me ne sono arrivati almeno 20 per 20 occasioni diverse, ma solo stasera, rischiando di stare in piedi tutta la sera, mi è riuscito di venire. E devo dire, la tua è un'esperienza.